Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di giovedì 3 luglio 2025 da Zarvins Magnetics Radio Onde Furlane. Andiamo subito con la sigla del nostro programma Retribution Day Behind Enemy Lines. Bene, allora ascoltiamo ancora un po' di musica e andiamo subito con i Ministry. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. A new world order. A new world order. A new world order. We'll be right back. Un saluto a tutte e a tutti. E allora, dopo questo inizio musicale super lanciato, così presento quello di cui si parlerà stasera. Sarà una puntata dal punto di vista dei contributi, diciamo, sì, insomma, a voce, quasi monografica, nel senso che pensavo di parlare di fare delle letture da un testo, da un libro che è appena uscito da poco, che è un'autoproduzione, che si intitola Carte, forbici, sassi, sfide da e contro le prigioni e il patriarcato. E appunto un testo che affronta la questione della carcerazione, e specificamente della carcerazione femminile, e secondo vari punti di vista, sia punti di vista, diciamo, teorici che autobiografici. E allora il libro è interessante perché sviluppa un sacco di argomentazioni, insomma, e poi appunto crea così delle connessioni tra la società dentro e la società fuori, attraverso anche un'analisi appunto del patriarcato, oltre che dello stato capitalista. Ma è interessante anche perché per la modalità attraverso il quale è stato realizzato. Praticamente è frutto del lavoro di due compagne che tra il 2020 e il 2021 si sono trovate una da una parte del muro del carcere e l'altra dall'altra. Quindi una di queste compagne era detenuta, l'altra era in corrispondenza, e da questo dialogo tra il dentro e il fuori, dialogo epistolare, insomma, per fortuna la compagna detenuta è stata poco dentro, ma comunque è nato questo progetto, questo intento di coinvolgere le prigioniere anarchiche, ex o attualmente ancora detenute, insomma, in questo progetto editoriale, insomma, di racconti e di analisi della propria carcerazione, ma anche di analisi della carcerazione in generale. E quindi niente, proporremmo così un po' di letture da questo testo, e intanto ancora un po' di musica. Sharon got Sharia, she was sharing Sharon's outlook on the topic of disease. Mikey had a facial scar and Bobby was a racist. They were all in love with dying, they were doing it in Texas. Tommy played piano like a kid out in the rain, and then he lost his leg in Dallas, he was dancing with the train. They were all in love with dying, they were drinking from a fountain that was pouring like an avalanche coming down the mountain. I don't mind the sun sometimes, the images it shows. You on my lips and smell you in my clothes. Cinnamon and sugar and softly spoken lies. You never know just how to look through other people's eyes. Pursuit and fiery auto crashes. Some will die in hot pursuit while sifting through my ashes. Some will fall in love with life and drink it from a fountain that is pouring like an avalanche coming down the mountain. I don't mind the sun sometimes, the images it shows. I can taste you on my lips and smell you in my clothes. Cinnamon and sugary and softly spoken lies. You never know just how you look through other people's eyes. Sunglasses, he took a knife while arguing in traffic. Flipper died a natural death. He caught a nasty virus. Then there was the ever-present football player rapist. They were all in love with dying. They were doing it in Texas. Holly caught a bullet, but it only hit his leg. Well, it should have been a better shot. Got him in the head. They were all in love with dying. They were drinking from a fountain that was pouring like an avalanche coming down the mountain. I don't mind the sun sometimes, the images it shows. I can taste you on my lips and smell you in my clothes. Cinnamon and sugary and softly spoken lies. You never know just how you look through other people's eyes. Questi erano i Butthole Surfers con il loro pezzo storico Pepper. Adesso andiamo con un altro pezzonte. Goblin, Beginner's Guide to Suicide. A Allora, dicevamo che le redattrici del libro Carte, Forbici, Sassi hanno scritto questo invito a condividere esperienze e riflessioni da e sul carcere femminile, con un'attenzione particolare al circuito dell'alta sicurezza. Hanno inviato questo invito in forma cartacea, naturalmente, all'interno delle carceri dove ci sono compagne anarchiche detenute o a compagne anarchiche che sono ormai uscite per fortuna dal carcere. Hanno ricevuto i contributi di 10 compagne, le quali hanno raccontato, insomma, la loro vicenda, e poi dopo, da questi racconti autobiografici, si sono sviluppate altre riflessioni. Allora io inizio proponendo la lettura del contributo di una compagna che si intitola Prigione e prigioniere, racconti e spunti dopo anni in diverse situazioni carcerarie tra il 2006 e il 2015, quindi una compagna che ha avuto una carcerazione, insomma, abbastanza lunga tra dentro e fuori, sì, tra entrate e uscite. Finire in prigione significa passare attraverso una serie di meccanismi che sono studiati, sperimentati e ripetuti allo scopo di contenere. Il primo obiettivo che il carcere si prefigge è quello molto banale di gestire la quotidianità di una quantità di persone e i loro bisogni primari con il minimo sforzo. Quindi tutte le persone ristrette in quello spazio sono indistintamente, seppure con differenze tra i diversi regimi, sottoposte a regole, orari, punizioni. E questo inevitabilmente comporta la spersonalizzazione dell'individuo, l'allontanamento dalla propria specificità. Sebbene le regole e le linee da seguire in carcere siano imposte dal vertice della gerarchia statale che parte dal ministero, passa attraverso i direttori, commissari, ispettori e via giù fino all'ultima guardia, in verità chi decide la vita all'interno delle prigioni, giorno dopo giorno, sono proprio le guardie. Queste, pur eseguendo gli ordini calati dall'alto e pur seguendo le norme di un regolamento che conoscono poco e male, portano nella vita del carcere le proprie idee, convinzioni e pregiudizi. Quindi, se è vero che i detenuti e le detenute sono lo specchio di una parte di mondo, lo sono altrettanto anche gli operatori e le operatrici, civili e militari, che nel carcere lavorano. Quindi ci sono due mondi opposti che convivono: quello di chi, per finire là dentro, non solo ha sbagliato, ma è sbagliato, e quello di chi sceglie di chiudere e controllare le persone e non solo fa la cosa giusta, ma è giusto. Attraverso questa condizione si crea un rapporto guardia-detenuto che va oltre il rapporto scontro tra carceriere e carcerato, e soprattutto nelle lunghe detenzioni la guardia, e su fino al ministero, diventa padre, prete, educatore, si arroga il diritto di entrare nell'intimità, spia il dolore, la rabbia, il modo di vestire, di parlare, di camminare, trova normale dirti come e quando lavarti, quanto mangiare, quanto dormire. Lui o lei ha in tasca la formula della tua vita: non solo devi stare là dentro a scontare la tua pena, devi farlo come dicono loro, perché se sei lì dentro c'è qualcosa che non va in te. Su molti punti la repressione operata all'interno delle prigioni non fa distinzioni di genere. Sulle persone che popolano le galere la finalità è sempre la stessa: l'abbattimento della tua personalità e il contenimento della tua persona. Le modalità con cui si persegue questo fine sono sostanzialmente due: una che segue la linea dura, fatta di violenze, angherie e privazioni; l'altra che segue la linea soft, fatta di lavoretti, spazi, concessioni. A volte le due tecniche si sovrappongono, tutte e due sono finalizzate alla distruzione di ciò che sei o sei stato. Il fine ultimo del carcere non è punirti, è cancellare quella parte di te che è sbagliata, insegnarti a stare al tuo posto. Quindi sono d'accordo con chi sostiene che il carcere è rieducativo e trovo che questo sia l'aspetto più inquietante. Tutti gli operatori che incontri in carcere, da quelli militari a quelli civili, non ti considerano un essere senziente, ridiventi bambino, bambina, e per riportarti nella zona ipocrita dei comportamenti omologati devi attraversare un percorso fatto di punizioni e premi, di rappresaglie e ricompense. Finisci in carcere per un reato, ma quello che ti viene contestato è aver scelto di andare contro un ordine stabilito. La prigione ha come compito fondamentale quello di educarti a fare la scelta giusta. Il primo passo è riportarti all'età dell'infanzia. In galera non sei ritenuta o ritenuto capace nemmeno di gestire la tua fame, il tuo sonno e i tuoi ormoni. Questo vale per tutte le persone recluse, questo vale in tutti i regimi. Alta sicurezza 2, alta sicurezza 3, comuni. vale nel maschile e vale nel femminile, ma nelle carceri, dove sono detenute le donne, c'è un fattore in più. La donna sbaglia di più, perché ha tradito il suo patto con la società, esattamente come l'uomo, ma ha anche tradito quella che dovrebbe essere la sua indole. Ha fatto qualcosa che non solo contravviene alle leggi dello Stato, ma anche a quelle della natura. Se sei donna ed entri in carcere, non sei solo criminale, sei anche immorale. In una società patriarcale, la donna è fondamentalmente un essere bisognoso di protezione e guida. La donna in carcere non ha evidentemente seguito la guida imposta e, anziché avere paura, fa paura. La mia esperienza mi ha portato a girovagare per qualche anno, dal 2006 al 2015, tra continui entra e esci, in varie carceri italiane, 6 per l'esattezza, sia nel regime dei comuni sia nell'alta sicurezza, e in tutte ho sempre sentito la frase: pensi ai suoi figli, o se i figli non li hai, poteva farsi una famiglia. Se sei donna ed entri in carcere, ti verrà imposto un regime di comportamento e un regolamento per scontare la tua pena, ma anche un'educazione morale. Ho vissuto un paio d'anni a Santa Maria Capua Vetere, dove alle detenute era proibito, anche d'estate, indossare canottiere e pantaloncini. Era vietato sdraiarsi o sedersi per terra ai passeggi, perché ritenuto indecente. Le detenute non si sedevano nella stessa branda, perché era stato detto loro, dalla direttrice, che lo stare sullo stesso letto poteva dare adito ad atteggiamenti omosessuali. In caso di trasgressione arrivava la guardia e sospendeva la socialità. Veniva invece tollerato il prete, che in cambio di una telefonata, un pacco o anche per niente, si autolegittimava a palpeggiare le donne che si rivolgevano a lui, nonostante le proteste e nonostante lo facesse sotto l'occhio delle guardie. In massima sicurezza, le perquisizioni corporali sono frequentissime. A Santa Maria Capua Vetere ne avevo contate 10 al giorno. Le guardie osservavano il mio corpo in maniera umiliante tutti i giorni per 10 volte. Tuttavia, indossare un paio di pantaloncini per andare ai passeggi generava nelle stesse molto disappunto. Insomma, ci si poteva scoprire solo a comando. Questo delirio della copertura dei pezzi di pelle, questa battaglia alla promiscuità, è stata comunque un'occasione di sorellanza con le altre compagne di sventura, donne con storie molto diverse dalla mia, provenienti da ambienti molto autoritari e macisti, veterane e nuove giunte, vecchie e giovani, con fine pena o con fine pena mai, tutte 60 insieme, un giorno ai passeggi, si sono arrotolate i pantaloni al di sopra del ginocchio e rifiutate di salire nelle celle. Per me è stato veramente liberatorio e divertente. Alla fine il direttore ha ceduto. Siccome ci avevamo preso gusto, abbiamo fatto altre piccole battaglie: la libertà di risalire dai passeggi quando si voleva e non allo scadere delle 2 ore, possibilità di acquistare prodotti igienici anziché usare la saponetta della casanza, possibilità di ricevere francobolli, piccole cose ma enormi in quel momento, soprattutto se vivi un'epoca di lotta in cui non si fanno grandi passi avanti, ma questo è un altro discorso. Ci stavamo approssimando a chiedere di essere trasferiti al piano di sopra, dove le celle avevano la doccia, quando ho rischiato il TSO. Una manfrina con certificati falsi di medici mai incontrati da me, che dà il polso di come il carcere sia veramente un marito con la virilità messa in discussione. Dal loro album The Revolt Against Hard Noises, la canzone, il pezzo omonimo di questa band californiana della zona del deserto del sud, e andiamo con i loro rumoroni. E continuiamo con la lettura di questa testimonianza intitolata Prigione e prigioniere. D'altra parte, quando una donna racconta di essere stata offesa nel corpo, nell'anima, la risposta del maschio è che è pazza. Sono stata anche in un carcere ritenuto aperto, Rebibbia. Qui erano tollerate canottiere e pantaloncini, le relazioni amorose tra donne detenute non venivano osteggiate e si agevolava la convivenza delle coppie nella stessa cella. Tuttavia, spesso la guardia di turno, all'apertura della posta, controllava e selezionava le foto o i disegni per scartare eventuali immagini pornografiche o ritenute tali dalla morale, evidentemente più elevata della nostra, della guardia di turno. Al maschile, ovviamente, le riviste pornografiche erano in vendita. In un'altra prigione, Badu e Carros, tutti gli ortaggi che si potevano acquistare e richiamavano la forma fallica venivano tagliati perché, parole testuali, era proibito masturbarsi. Per lo stesso motivo non era possibile comprare assorbenti interni. In quasi tutte le prigioni in cui sono stata, al maschile era possibile acquistare alcolici, al femminile no, ma erano caldamente consigliati e spacciati Valium e sedativi vari. In fondo, oltre che criminale, sei snaturata, meglio dormire. In tutte le prigioni femminili non esisteva la MOF, manutenzione ordinaria fabbricato, per cui la manutenzione veniva eseguita da squadre di detenuti del maschile. Le donne di Rebibbia sono riuscite a creare le loro squadre di manutenzione. Devo ammettere che per me è stato difficile scegliere di partecipare a battaglie che rivendicavano il diritto a una vita più comoda dentro la prigione, poiché nella mia testa c'è sempre stata la convinzione che il carcere debba crollare, non essere reso più vivibile. Tuttavia vivere ci dovevamo e inoltre ho imparato quanto queste piccole lotte, oltre a creare comunanza e forza, ricordano a chi è rinchiuso che si può scegliere, alzare la testa, determinare come si vuole andare avanti. Ho conosciuto una donna più grande quando sono arrivata io, che era lì da molti anni e altri ne aveva da scontare. Non ha mai indossato un vestito, aveva sempre il pigiama, anche quando veniva chiamata in direzione, dall'educatore a colloquio. Era il suo modo di protestare. Si è messa un vestito il giorno che è uscita. Io l'ho trovato geniale. Credo di essere stata abbastanza fortunata negli incontri con le altre. Ho sempre trovato con chi fare piccole battaglie. Ho sempre sentito la resistenza delle altre, a volte anche la solidarietà. Anche quando ero in isolamento, in qualche carcere comune, come quando a Buon Cammino le altre, tutte, rinunciavano a un'ora d'aria per poter far uscire me ai passeggi e mi lanciavano le loro merende. O a San Sebastiano, dove intonavano canzoni e mi chiedevano come stavo, donne di cui non ho mai visto le facce. Il mio passaggio in questo contraddittorio carcere è stato segnato ovviamente anche dalla presenza delle compagne. Ho avuto la fortuna di vivere con donne che arrivavano da un'epoca in cui il concetto di rivoluzione e di insurrezione era reale, tangibile. Donne che a questo hanno dedicato la vita, che hanno consentito a noi nuove di vivere di rendita, perché molto era stato fatto da chi c'era prima di me. Ma ho avuto anche la fortuna di vivere con giovani donne compagne che hanno portato leggerezza e nuovi punti di vista in quel buco di sezione. Con loro ho sperimentato ancora una volta quanto la risata, la follia gioiosa, destabilizzi chi deve chiuderti a doppia mandata. Quando sei dentro la pancia del mostro, scopri che è veramente difficile opporsi al lavoro certosino che viene fatto su di te, alle dinamiche imposte giorno dopo giorno, al solo fine di annientarti e riportarti nella retta via. Se sei donna ti dovrai opporre anche al fatto di essere trattata diversamente, perché appartenente al genere che dovrebbe essere debole. Dentro la prigione ho avuto la conferma di non poter far altro che piccole battaglie, che abbattere il mostro è pressoché impossibile, e perciò la mia risposta alla quotidiana aggressione del carcere è stata continuare ad essere quello che sono, dire quindi no a chi mi voleva pura e piegata. Ho risposto con la risata e il sarcasmo, con la fantasia che mi ha fatto inventare stratagemmi per rendere gravoso e noioso il lavoro di chi mi chiudeva e controllava. Ho capito che il mostro ha la soluzione per tutto, ma non per le tue risate. Sa gestire la tua rabbia, la tua disperazione e ne gode. Quello che lo manda in blocco e lo infastidisce è il tuo buon umore, la tua ironia, il tuo stare ferma nelle tue posizioni e nei tuoi no, senza cedere, senza dargli modo di alimentarsi attraverso i tuoi turbamenti. Ma è anche vero che finisci per controllare le emozioni, le perquisizioni quotidiane ti allontanano dal tuo corpo, dalla tua sessualità, da te. si restringe lo spazio e il territorio di tolleranza del contatto con il resto del mondo. Nei colloqui riduci al minimo i gesti d'affetto, per evitare di farli mangiare alla telecamera che ti spia, ma anche perché poi è difficile affrontarne la mancanza e la nostalgia. Ti blocchi, ti rigidisci, perdi il ciclo mestruale e ne paghi lo scotto quando esci. Non ho soluzioni efficaci per abbattere l'oppressione, l'illogicità, il sessismo del carcere. Bisogna avere memoria e ricordarsi costantemente chi si è. E allora il sorriso è spontaneo e il mostro per un po' scompare. Questo pezzo era Ombre degli Echo, questa band di Milano, tratto dal loro disco Orizzonte Divoremi, mentre ora andiamo ad ascoltare gli AK-47 con il loro pezzo Profondo Crack. Gira e tira in gira nel traffico del centro misurato a passi, a ridere da scemi in mezzo a quanti sembrano felici. Che dici? Legati sui binari d'uniformità, non va, leggeri rotoliamo, sicuri, nell'aria si respirano i soli. Se nella vita l'importante è saper essere leggeri. Stock, stock, ritmo cardiaco in un giorno di profondo crack. Boom, stock, io ti respiro per non respirare smoke. ritmo cardiaco in un giorno di profondo crack. Boom. Stock. Respiro tempo, non respirare smog. Ore a triturare prove dalla fine. Scarto il peggio per tranquillizzare il cuore. Paura 140 all'ora, sai che c'è. Canto perché sento odore di te su di me. Boom. Stock. Ritmo cardiaco in un giorno di profondo crack. Trovo riposo ai miei pensieri sul tuo corpo. Ricordo quel giorno te n'è andato tutto sotto una lacrima a volte. Scempi in fretta di un istante. Uscire sola ti sembrava imprudente. Chi non c'è mai passato forse non capisce quanto unisce a volte ciò che non distrugge. Provare e riprovare di riuscire a uscire insieme vale più di un rimpianto, tempo vuoto speso. Ma uno squillo mi risveglia dal letargo. Tra le costole e l'addomo come un tatuaggio impresso. Una dolcezza inquieta piove dentro al petto. Se non ci sei mi rimani sempre un poco, sai. Riassaggio quel sapore, cambia ancora umore. Risveglia la matita sopra un foglio, porta quell'odore. Silenzio fra luce assente e vento in piazza. Rilegga atteggiamenti impressi in quella prima volta accanto distante. Non mi sorprendo più, sorridendo solo come sai guardarmi tu. Ritmo cardiaco in un giorno di profondo crack. Boom. Stock. Io ti respiro per non respirare smog. Boom. Stock. Ritmo cardiaco in un giorno di profondo crack. Boom. Stock. Respiro te per non respirare smog. Boom. È un'altra sigaretta in bocca. Boom boom. Cos'è che manca? In equilibrio sospeso ma niente ansia. Al volo ci capiamo, andiamo bene. Se nei polmoni c'è un affanno nuovo, non è un appuntamento. Lo sai da dove viene quando la rincontri dopo. Come va, se ti va. Disegno ancora fiori per qualcuno sopra carta sporca. E per ognuno è un desiderio che riconoscerei fra mille uguali. Negli anni passati davanti ai tuoi occhi chiari mi svegli. Non sembra neanche Roma, questa è mi sfiori. È luna piena ma fa già mattina e siamo fuori. Giorno di profondo crack, boom. Stock. Io ti respiro per non respirare smog. Boom. Stock. Ritmo cardiaco in un giorno di profondo crack, boom. Stock. Respiro te per non respirare smog. Boom. Stock. Ritmo cardiaco in un giorno di profondo crack, boom. Stock. Io ti respiro per non respirare smog. Cardiaco in un giorno di profondo crack. Boom. Stock. Respiro te, non respirare smog. E siamo sempre su Zardins Magnetics in diretta da Radio Onde Furlane da Udine. La Radio Onde Furlane ci ospita. Questa è una trasmissione autogestita. Allora, continuiamo con le letture da questa raccolta di testimonianze, di riflessioni sul carcere, con particolare riferimento al carcere femminile, carte, forbici e sassi. E così leggo una parte della testimonianza di un'altra compagna, una testimonianza sul suo arresto. Lettera ad un'amica, poche ore in carcere nella Svizzera italiana nel 2021. Ciao amica, mi chiedi di raccontarti un po' di come è andata su in Ticino quando mi hanno arrestata. Che dire, i motivi dell'arresto non so quanto siano interessanti. Era una di quelle situazioni che avrebbe potuto anche sfociare solo in un po' di oh oh oh oh e qualche spintone. Anche perché non c'erano le forze per veramente contrapporti fisicamente agli sbirri in antisommossa. Solo che a un certo punto, parliamo comunque di secondi, massimo un minuto, mi ritrovo isolata dal resto delle compagne e dei compagni, al di là del blocco fatto dagli sbirri con i loro corpi, e accanto a me vedo un compagno a terra, a pancia in giù, con uno sbirro sopra che gli schiaccia la testa contro i sassi, con il ginocchio. La mente lavora velocissima, mi rivedo in un arresto in cui lo sbirro mi teneva il braccio intorno al collo e non riuscivo a respirare. E poi sono svenuta. Rivedo questa scena e penso: questo me lo ammazza davanti agli occhi. È come in un incubo in cui urli ma non emetti nessun suono, vuoi correre ma non ti sembra di muoverti, ho provato a liberare il compagno dalla presa dello sbirro. C'era casino e urla, ma una voce sovrasta sulle altre. Lo sbirro che chiama i colleghi: arrestate questa pazza. pazza, perché infatti una donna arrabbiata che reagisce e si frappone fisicamente a quello che non le va bene, che si ribella e alza la voce, può solo essere pazza. Pericolosa prima di tutto perché pazza, fuori controllo, in contrasto con l'immagine della donna, del femminile, che ancora oggi esiste e permea gli immaginari del possibile. Imprevedibile, spiazzante e poi magari anche pericolosa, anche per la forza, ma questo viene dopo. Una volta ammanettata ero calma, ma mi hanno comunque portata via in tre. Sia mai che a farmi camminare avrei potuto tirar fuori qualche trucco dal cappello della follia. Stiamo ascoltando questo pezzo degli Accidente a cambio de che dal loro album Amistad e Rebellion. Volevo ricordare che questa trasmissione è in onda grazie all'Assemblea contro il carcere e la repressione di Friuli e Trieste, e un saluto anche dalla regia. Sì, e continuiamo con queste letture di donne, dell'esperienza delle donne carcerate. Continuiamo con un breve testo su Medici e Salute, la visita medica di primo ingresso. Si riferisce all'esperienza di una compagna, di una breve carcerazione di una compagna alle Vallette nel 2019. E l'arresto era seguito era avvenuto nel contesto del corteo del 9 febbraio 2019, corteo in solidarietà all'asilo occupato appena sgomberato e a compagni e compagne arrestati per l'operazione Scintilla. E appunto la carcerazione di questa compagna che racconta è breve, però l'arresto è stato particolarmente cruento e violento, e insomma la compagna è stata picchiata brutalmente. e quindi si trova in questa situazione di primo ingresso, insomma, in questa visita medica di primo ingresso. Alla visita di primo ingresso la dottoressa del carcere non mi ha visitata, dicendo che lei non può fare referti, ma che avrebbe potuto verbalizzare soltanto una mia autodichiarazione. Mi chiede soltanto di mostrarle tutti gli ematomi mentre resta seduta dall'altro lato della sua scrivania, alla presenza in stanza della guardia carceraria, e di dire come me li ero procurati. Non mi sento per nulla sicura a raccontare a quel medico chi e come mi aveva inferto quei traumi. Un pensiero che mi faccio è che gli sbirri che mi hanno accompagnata lì, tra i quali potenzialmente anche i miei aggressori, siano ancora nei pressi per controllare che cosa racconto. Comunque le rispondo che, come facilmente intuibile, gli ematomi sono dovuti a manganelli e calci. La secondina e la guardia si guardano tra loro nel modo omertoso di chi sa benissimo com'è andata, come fossero davanti all'ennesima seccatura quotidiana di quando gli sbirri picchiano, poi non mandano a refertare né a medicare, aspettando che gli ematomi passino. Il medico ribadisce più volte che lei non può proprio farmi un referto, ma soltanto indicare le mie condizioni d'ingresso, ricollegabili genericamente all'occasione dell'arresto. Non riceverò mai quella cartella medica, nonostante le mie richieste. Mi prescrive un ghiaccio istantaneo e una tachipirina 1000, che l'infermiere mi avrebbe poi somministrato in cella ogni sera per 3 giorni, quando è l'ora della terapia, cioè quando il personale infermieristico passa in sezione con il carrello e somministra i farmaci. La terapia si assume obbligatoriamente a vista, davanti a loro. La pillola di paracetamolo mi viene portata priva di confezione su un piattino da un infermiere e un'infermiera studiate all'università, proprio come me, e probabilmente della mia età, che mi guardano con occhi di superiorità e giudizio. Forse non avevano apprezzato il corteo, o forse trovarsi dal lato giusto, buono, umanitario delle sbarre, gli fa assumere quell'atteggiamento di superiorità di cui certamente non si rendono nemmeno conto. Ammetto che per un attimo rivedo in loro una parte di me che da lì a un mese avrei discusso la mia tesi di dottorato in giurisprudenza, dei miei studi e del mio attivismo universitario, votato a quell'umanitarismo di sinistra, arrogante e paternalista, anche quando in buona fede, capace di illudere che si sta facendo qualcosa per il bene di qualcun altro, mentre non fa che usarti sulla pelle di qualcun altro di cui sopra come pedina di un sistema spietato. Sta di fatto che alla terza somministrazione non mi fido più del fatto che sia paracetamolo, e appena se ne vanno corro a sputare la pasticca nel cesso. Paranoia? Quasi sicuramente, però è stato forte il timore che mi volessero rincoglionire e non volevo correre quel rischio. Stando chiusa dentro la cella, comprendevo quella sensazione di non fidarsi di nessuno che sta dall'altro lato delle sbarre in cui sei rinchiusa. Per concludere la questione medica, posso dire che il giorno seguente, domenica, ho chiesto alle guardie, quando era lì presente il mio avvocato, di rivedere il medico. Davanti a lui la guardia mi risponde di salire e richiederlo alle guardie di sezione. Una volta salita, queste mi rispondono che la domenica il medico non c'è mai, salvo rischio di morte. Ottengo solo un ghiaccio dall'infermiere. Dalla mattina seguente, il lunedì, comincio la prima di tante richieste di rivedere il medico, che però non arriva mai, mentre le guardie fanno orecchie da mercante, mentre le chiamo ripetutamente, gridando dalla cella. Verso sera mi attacco alle sbarre, gridando fino a che mi comunicano che il medico finalmente è arrivata. L'ambulatorio di sezione affaccia sulla postazione d'ingresso, dove stanno le guardie, una delle quali si mette sulla porta aperta a osservarmi. Alle mie richieste di privacy, rivolte alla dottoressa, questa, con un certo imbarazzo, si gira cercando approvazione verso la guardia, la quale mi dice: «Siamo in carcere, qui non c'è privacy». Già, quindi riesibisco tutti gli ematomi, chiedendomi fossero refertati uno a uno. La dottoressa risponde che il referto avrebbero dovuto farmelo alla visita di primo ingresso. Ta-ta-ta-ta-ta. Chiedo una pomata, perché la tachipirina non era sufficiente ad alleviare dolore gonfiore. Ma dove credevo di stare? In carcere non ci sono pomate. Con gli stessi dolori di partenza, amplificati da sconforto e gastrite, ritorno in cella. Nella violenza sistemica del sistema carcerario e sanitario interno, il comportamento non cambia quando devi fare i conti con dolori o patologie ben più gravi e per periodi di detenzione ben più lunghi di questa piccolissima esperienza. Spesso ne veniamo a conoscenza solo quando il grado di afflizione di queste angherie è portato alle estreme conseguenze o quando la notizia riesce a bucare il muro di gomma detentivo, cosa impossibile quando non si ha la fortuna di avere una rete fuori. Ma è bene che ci ricordiamo di quanto tutto questo è normalizzato Il fatto di non sapere, spesso nemmeno per quanto tempo dovrai sopportare il dolore o il malessere fisico, la condizione di vita in una cella senza orologio scandita solo dalle loro concessioni, aria, pasti, socialità, mette a dura prova anche la mente. Without lying, I was born to quit smoking. I was born to quit dying. On that day, not doing heroin will be easy as pissing. On that day, I'll stop talking so much shit about the government, 'cause urine speaks louder than words on a politician or on a prison warden. Urine speaks louder than words. Questa era dei Wingnut Dishwashers Union, Urine Speaks Louder Than Words, l'urina parla più forte delle parole, sulle guardie penitenziarie. Sono Enrico Papi, vuoi sapere? Adesso invece il prossimo pezzo sarà un pezzo dei Rancia Col Glory e che si chiama Your Heart is a Muscle the Size of Your Fist. Doll, you never show me nothing but kindness. She would say, I know how sad you get. And some days I still get that way, but it gets better. It gets better. It gets better. Sweetie, it gets better, I promise you. And she'd tell me, she'd tell me, she'd tell me. Your heart is a muscle, the size of your fist. Keep on loving, keep on fighting, and hold. Pillow, he's living in Boston now. Going to him straight to his parents' cabin and put a bullet in his head. Your heart is a muscle the size of your fist. Keep on loving, keep on fighting, and hold on, and hold on. Hold on for your life, for your life, for your life. Your heart is a muscle the size of your fist. Keep on loving, keep on fighting, and hold on. Così concludiamo questa proposta di letture dal libro Carta, Forbici, Sassi, con questa ultima, diciamo, testimonianza un po' dal tenore un po' più filosofico. Questa compagna, appunto, che parla, ha titolato il suo contributo Dubbi e parole, uno scritto dopo una carcerazione di diversi mesi in alta sicurezza 3 nel 2020. E la compagna parla di saper farsi la galera. Io mi sono fatta una serie di domande su questo concetto, perché no, non me la voglio saper fare la galera. La galera mi fa schifo, così come la società fuori. E no, non me la voglio saper vivere la società fuori. Me lo rivendico che non ci so stare, che mi fa male. Come diceva Lombroso, che le anarchiche e gli anarchici sono troppo sensibili e si sentono feriti per ogni ingiustizia, che ci abbiamo una malattia. Io credo che non ci si possa stare davvero. Come scrivevo sopra, ho sempre tenuto una distanza, ma sono stata poco e ad una certa mi è diventato chiaro che sarei uscita, magari non subito, ma non dopo decine di anni. Mentre scrivo, c'è qualcuno che sta lottando contro il regime di isolamento 41 bis, che ha deciso di preferisce morire piuttosto che starci e pensare, dopo averlo vissuto, che qualcun altro ci possa stare. Io credo che per tutta quella cultura carceraria di cui parlavo, che ha attraversato e attraversa, credo, anche tante prigioniere rivoluzionarie di ispirazione comunista, io mi sono un po' rifiutata di sapermi fare la galera. Non è nel mio carattere né nella mia etica piangere tutti i giorni e lamentarmi, e per quanto io mi ritenga un individualista, non penso che i miei bisogni siano più importanti di quelli di altri nella mia posizione o in una posizione analoga. Intendo a livello di privilegi ed oppressioni. Non mi è mai venuto in mente di pretendere qualcosa né dalle mie compagne di sezione né dalle compagne dei compagni anarchici fuori rispetto ad una mia solo personale necessità o rivendicazione. Quando ho creduto necessario ho fatto il casino che ritenevo giusto. Quando dico necessario intendo anche solo che ne avevo voglia, che volevo vedere come si poteva rompere la normalità del dentro, che avevo voglia di sentirmi viva, di sentire che esistevo. Io non sono tanto una fanatica della rabbia per la rabbia, diciamo. Da un lato non mi fa vivere bene stare sempre incazzata, dall'altro arriva un momento in cui un po' annebbia ed allora non si riesce bene ad indirizzarla dalla parte giusta e quindi si mettono in campo dinamiche brutte invece che soddisfacentemente sovversive. Penso che la rabbia ci dia il senso del limite della nostra etica ed in questo senso è necessaria, ma non penso che crogiolarcisi dentro dia luogo a pratiche di per sé buone, e per questo non amo la retorica che spesso circola tra anarchici e anarchiche sull'elogio della rabbia in sé. Mi sono sforzata di trovare una sorta di equilibrio, altalenante certo, tra il sentimento della rabbia e la necessità di lucidità, come mi sforzo nella società esterna di fare. Dentro sicuramente, soprattutto forse perché nel regime dove ero io e nelle mie condizioni specifiche stavo malissimo, moltissimo tempo da sola, le occasioni di svago del pensiero erano molto ridotte, in particolare non vedere mai il cielo, un albero, una montagna o la terra, e stare completamente immersa nel mondo umano mi ha reso necessario trovare tutto ciò dentro di me. Mi sono chiesta mille volte come potessi continuare a sopravvivere ed anche ridere e stare serena. Ogni giorno mi sono stupita dell'adattamento di cui è capace l'essere umano e ogni volta mi ha fatto paura. Davvero sono disposta a vivere così? Non che fuori sia una pacchia. Ogni giorno la mia risposta è stata nel cercare di ribellarmi in ogni modo possibile, di non farmi mai chiudere davvero. Non so se è solo un'illusione, non so fino a che punto ce la raccontiamo. Si sposta il limite, si sposta la nostra fantasia. Quella che sono contenta di dire, e lo dirò a costo di suonare banale oppure un po' coatta, è che abbiamo sempre una scelta, possiamo sempre decidere quanto far funzionare i meccanismi dei sistemi di dominio che ci investono, quanto non farli funzionare affatto. Le donne che ho conosciuto che si sapevano fare la galera mi hanno dato moltissima forza, pur non condividendo magari moltissime altre cose. Quelle che ho conosciuto che non se la sapevano fare affatto le ho certo capite, perché condivido il fatto che la prigione sia inaccettabile da qualsiasi punto di vista e capisco che non tutte abbiano la fortuna o le possibilità che ho io. Ho visto diverse donne cambiare. Non è vero che ciò che non ci piega ci spezza. Sì, questa era per questa sera l'ultima così testimonianza che volevo proporre da questo libro Carte, forbici, sassi, sfide da e contro le prigioni e il patriarcato. Si tratta di un'autoproduzione. Il libro costa 8 euro e tolte le spese di stampa tutti i soldi sono benefit per i prigionieri e le prigioniere anarchiche. E potete richiedere, se siete interessati, il testo all'indirizzo forbici@riseup.net, oppure magari non subito ma tra un paio di settimane potete trovare il libro anche nello spazio autogestito di Via De Rubeis 43 a Udine. Problemi di pubblicità della piattaforma permettendolo, siamo riusciti a mandare in sottofondo anche i Bestiario con l'album Este Infierno e il pezzo si chiama Los Niños del Caos. Andiamo ancora ad ascoltarci ancora un pezzettino dopo un'altra banda. Oscura y gris, de vivos tan vivos. Volevo, oltre a salutarvi, introdurvi un'iniziativa che riguarda Udine e dintorni, quindi chi ci ascolta qui, insomma, vicino. Mercoledì 9 luglio, quindi tra qualche giorno, alle 20.30 allo spazio autogestito via De Rubeis, presentazione dell'opuscolo Egitto, paese sicuro, una storia paradigmatica di reclusione e deportazione dal CPR di Gradisca di Sonzo. È un opuscolo a cura dell'Assemblea No CPR FVG. Allora, dice la presentazione, vorremmo per una volta ancora concentrarci su una vicenda paradigmatica che tiene assieme varie soglie del funzionamento della macchina del razzismo di Stato. La storia di una persona arrivata a superare i mille muri della fortezza Europa, quelli esterni, per ritrovarsi nuovamente rinchiuso nelle maglie delle frontiere interne, nel CPR e poi nel volo charter che, insieme ad altri, lo ha riportato al punto di partenza. Quindi appuntamento Udine, insomma, spazio autogestito via De Rubeis 43, e possiamo dire che è un'anteprima, perché l'opuscolo non mi risulta che sia stato presentato finora. Presentazione alle ore 20.30 allo spazio autogestito via De Rubeis 43. Egitto, paese sicuro, una storia paradigmatica di reclusione e deportazione dal CPR di Gradisca di Sonzo. Till it's gone. Bene, siamo veramente agli sgoccioli, penso che ci sarà ancora un brano dopo questi miei titoli di coda di questa trasmissione che si chiama Zardins Magnetic, se va in onda tutti i giovedì sera in onda reale, diciamo in diffusione FM da Redonde Furlane o in streaming. In streaming va anche in onda, però appunto va in streaming il venerdì su Radio Eustachio e su Radiazione. Lo trovate come podcast al blog seguente Zardins Magnetics Radio tutto attaccato .onoblogs.org. Esiste anche un canale Telegram per essere aggiornati su questo e su qualche iniziativa, insomma, qui in giro. È sufficiente, insomma, cercare Zardins su Telegram. Ho detto questo, adesso mi rimane da dire la mail di contatto dell'Assemblea Permanente contro il Carcere e Repressione Friuli e Trieste, che è libere tutti, tutto attaccato, @autistiche.org. Per contatti carta e penna, l'ultimo riferimento che vi do, scrivere a Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 34 121 Trieste. Ecco, questa è la casella postale cui potete inviare contributi, saluti, critiche, complimenti, cartoline, quello che volete, e noi lo leggeremo. Mi sembra che non ci sia altro di granché da aggiungere, se non che come sempre ci troverete giovedì sera prossimi qui in diretta. È tutto, la linea torna alla regia per gli ultimi brani. Un saluto anche dalla regia, per chi non li avesse riconosciuti precedentemente abbiamo messo anche i Days and Days con Damaged Goods e adesso sentiremo l'ultimo pezzo. Questi sono Anarchia Tropical. Negrita ven, prende la meta. Negrita ven, prende la mecha, que va a empezar la cumbia, la llega. Vamos a quemar hasta la